Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non è vero che non curerò i razzisti, ammesso che ne esistano, nel senso che siano veramente convinti di quello che hanno scritto. Mi sento di dire che è inaccettabile nei toni, che noi dobbiamo cominciare a dire di no. Quello Valentino è inaccettabile come lo sono altre manifestazioni di tipo xenofobo e razzista. Sui loro autori li invito a una riflessione, sui toni e sulle modalità, perché se faranno una riflessione saranno loro, non come mi chiedono, a chiedere scusa. A parlare così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il dottor Corrado Lauro, che opera in chirurgia generale all'ospedale Santa Croce di Carle di Cuneo, che risponde in questo modo dopo aver già scritto un messaggio Facebook agli abitanti delle frazioni che lui cura di Roata Canale e Spinetta in provincia di Cuneo, che avevano scritto su dei manifesti anonimi comparsi su vari muri: noi i negri qui non ne vogliamo, perché dovevano arrivare 24 migranti. Allora lui aveva risposto su Facebook: allora io mi rifiuterò di curare gli abitanti di questa frazione a meno che non ci siano proprio dei gravissimi casi di emergenza. Allora Repubblica poi lo ha raggiunto e lui ha rilasciato questa intervista dicendo, sì, insomma, ritrattando un pochino, però dicendo che non è possibile avere queste reazioni, diciamo, umanamente non comprensibili, almeno da parte sua, come dice, di un medico. Bene, però parleremo di molte altre cose qui effetto note. Questo è diventato un caso, ma un caso un po' giallo anche questo dei vaccini obbligatori. Già pronto un decreto legge oppure no? Oggi c'era stato, sembrava ci fosse stato l'annuncio della ministra della salute Lorenzin, poi poco dopo è stata smentita da fonti di Palazzo Chigi, che hanno detto no, domani non sarà questo decreto legge in consiglio dei ministri come lei invece aveva annunciato. È intervenuta anche il ministero dell'istruzione, che ha detto i vaccini obbligatori non possono però ledere il diritto all'istruzione, perché se i vaccini sono obbligatori, coloro che non si vaccinano, secondo possibili norme che verranno probabilmente applicate, non dovrebbero andare a scuola. Insomma, diciamo, c'è un po' di caos, un po' di confusione, un po' di giallo da parte del governo su questa vicenda così importante. E poi ci occuperemo anche dell'attivista che era stato arrestato oggi a Mosca e poi per fortuna nel corso di alcune ore è stato rilasciato, e poi lo sentirete proprio qui a Effetto Note. Per interagire col programma, lo sapete, tutte le sere dalle 21 alle 22 c'è il numero per messaggio WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666, oppure per voi giorno e notte la pagina Facebook di Effetto Notte. I titoli. Vaccini, la ministra Lorenzin annuncia pronto il decreto legge per le vaccinazioni obbligatorie a scuola, a sostegno del PD. Palazzo Chigi però precisa non se ne discuterà domani, ma la ministra Fedeli avverte non si leda il diritto all'istruzione. L'attivista italiano arrestato a Mosca e poi rilasciato, ero lì per consegnare una petizione contro le brutalità nei confronti dei gay in Cecenia, dice, tra poco vi dicevo, lo sentirete effetto notte. Legge elettorale, niente accordo sul sistema tedesco corretto proposto dal PD, no di Forza Italia e Movimento 5 Stelle, e poco fa è stato presentato un Italicum bis. Bari, capitale mondiale dell'economia, al via oggi il G7 delle finanze. Rogo del camper a Roma, il cerchio si stringe sul sospettato, c'è l'ipotesi di una vendetta maturata in ambienti rom. DJ Fabo, il GIP respinge l'archiviazione per Cappato, l'esponente radicale commenta, rispetto la decisione ma vado avanti. Ciclismo al Giro d'Italia, la sesta tappa è dello svizzero Dillier, Jungels resta in rosa. Partiamo quindi dal tema dei vaccini, annunci e smentite, vi dicevo, dal governo sull'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a scuola. La ministra Lorenzin lo ha annunciato per domani in Consiglio dei Ministri, poi però Palazzo Chigi la smentisce e dice domani all'esame del Consiglio dei Ministri non è previsto alcun testo di legge relativo ai vaccini. Il Ministero dell'Istruzione intanto sottolinea l'obbligo dei vaccini non leda il diritto all'istruzione. È intervenuto in seguito Michele Ansaldi, capo della comunicazione di Renzi, che dice il governo fa bene a mandare un nuovo segnale chiaro sui vaccini, è bene che su questo non risultino marce indietro e che il decreto venga fatto il prima possibile. E tra poco quindi dovrebbe esserci in collegamento il sottosegretario alla salute Faraone per cercare di chiarire un po' come stanno effettivamente le cose. E poi parliamo dell'attivista italiano arrestato a Mosca e poi rilasciato, è stato rilasciato e accompagnato all'aeroporto, Yuri Guaiana, attivista dell'associazione radicale Certi Diritti, fermato oggi dalla polizia a Mosca insieme ad altri 4 attivisti russi mentre andavano alla procura generale per consegnare le firme raccolte, circa 2 milioni, della petizione contro il trattamento dei gay in Cecenia. Cerco di uscire il prima possibile dal paese perché c'è un processo a mio carico, non accuse vere, ha detto l'attivista dopo il rilascio. Guaiana è rimasto fermo alcune ore in caserma, la polizia però ha detto di non aver subito alcuna violenza. Sono stati poi rilasciati anche i 4 russi e, come vi dicevo, tra poco lo sentirete proprio qui a Effetto Notte. E oggi in Italia, a questo proposito, ricorre il primo anniversario della legge sulle unioni civili. Il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ha commentato: oggi vogliamo goderci la festa, le leggi, non ci stancheremo mai di dirlo, fanno cultura e gli effetti benefici del riconoscimento delle coppie omosessuali dello stesso sesso li apprezzeremo per decenni. Ettore Rosato, presidente dei deputati PD, ha scritto su Facebook: due persone che si amano e che si uniscono civilmente dovrebbero rappresentare un fatto normale. Questa legislatura sarà ricordata per il progresso dopo un colpevole ritardo. E colpevole ritardo è anche quello, modo diverso, della legge elettorale, sistema tedesco corretto, metà proporzionale, metà maggioritario. Questa è la proposta del PD per cambiare la legge elettorale. Il testo sarà presentato in commissione alla Camera, ma già raccoglie il no di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle. E poco fa è stato depositato dal relatore Andrea Mazziotti il testo base della legge elettorale, un italicum bis, ossia l'estensione al Senato della legge elettorale della Camera, così come modificata dalla Consulta. Il sistema estende quindi al Senato il premio di maggioranza alla lista che abbia il 40%, con soglia di sbarramento per entrambe le Camere al 3%. Poi cercheremo di fare un po' più di chiarezza, possibilmente nel corso di Effetto Notte. Siamo alla pagina economica che si apre da Bruxelles, dove stamattina sono arrivate le previsioni dell'Unione Europea di primavera e l'Italia ultima per la crescita. L'Italia economica continua ad arrancare, secondo le ultime previsioni economiche pubblicate questa mattina dalla Commissione europea. La crescita nazionale dovrebbe essere dello 0,9% nel 2017 e dell'1,1% nel 2018, di gran lunga la più bassa di tutti i paesi della zona euro. Secondo Bruxelles, queste stesse previsioni sono soggette a non pochi rischi a causa dell'incertezza politica e del lento, troppo lento, risanamento del settore bancario. È un quadro piuttosto deprimente quello tratteggiato oggi dall'esecutivo comunitario. La crescita resta fragile, il deficit elevato, il debito elevatissimo, ben oltre il 130% del prodotto interno lordo. In compenso, la Commissione europea nota un moderato aumento dei salari e una crescita dinamica delle esportazioni. Piede Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Previsione commentate a Bari, dove sono iniziati nel pomeriggio i lavori del G7 delle finanze. Nel corso dell'incontro bilaterale oggi col segretario al tesoro americano, alla vigilia dell'apertura appunto del G7, il nostro ministro dell'economia Padoan lo ha rassicurato, ha detto: lo stock dei crediti in sofferenza, aumentato negli anni della crisi, tornerà in tempi brevi a livelli più vicini a quelli fisiologici, così ha garantito Padoan. Più tardi ci collegheremo con Bari con la nostra inviata. E sul fronte bancario ci sono i tagli annunciati da UBI, tagli che riguardano un terzo del personale delle cosiddette good banks. Salvate a un passo dal fallimento nel novembre 2015, da allora Banca Marche, Popolare, Etruria e Carichieti hanno iniziato una lunga convalescenza che ha consentito loro, se non altro, di trovare un compratore. E il gruppo UBI, che ha pagato il prezzo simbolico di un euro, ma almeno ha deciso di accollarsi filiali e dipendenti, che in cambio consentiranno all'ex Popolare di incrementare la propria quota di mercato dell'1% a livello nazionale. L'operazione è stata chiusa ieri, a poche ore dall'acquisto. Stamattina UBI ha già comunicato il destino che attende i 3 istituti. Nonostante il cantiere del risanamento, oggi presentano ancora costi superiori ai ricavi e così l'acquirente ha annunciato che si dovranno risparmiare 200 milioni l'anno entro il 2020. In programma c'è la chiusura di 140 filiali sulle 500 attuali, ma soprattutto l'uscita anticipata di 1569 addetti, vale a dire circa il 32% dell'organico delle 3 banche. La borsa, cinica, quando vede il taglio dei costi compra e così il titolo UBI stamattina ha toccato un picco di oltre il più 2%. Per poi tornare intorno alla parità. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lavoro quindi che preoccupa anche in Francia. Clamorosa protesta oggi in un'azienda nel centro del paese, mentre sul fronte politico En Marche ha presentato la candidatura per le legislative di giugno. 428 candidati, il 52% dalla società civile, divisi esattamente a metà tra uomini e donne, e tutti con fedina penale pulita, età media 46 anni. Questo è l'identikit dei possibili futuri parlamentari della Repubblica en Marche, schieramento politico che costituisce la naturale evoluzione del movimento che ha portato Emmanuel Macron all'Eliseo. Obiettivo: vincere e portare a casa la maggioranza, evitando una faticosa coabitazione al potere. Parmi les candidats investis, 214. La promessa di cambiamento 214. È stata mantenuta, sentenza il segretario generale Richard Ferrand, che ricorda come il movimento abbia ricevuto 19.000 candidature. Zuccherino anche per l'ex premier socialista Manuel Valls, la cui autocandidatura è stata respinta al mittente. En Marche non gli opporrà però alcun contendente qualora dovesse candidarsi anche da indipendente nel suo collegio. Meglio andata ad altri 24 deputati socialisti passati con Emmanuel Macron, e ci saranno pure candidati appartenenti alla formazione centrista Modem. Il tutto mentre si apre un nuovo caso di conflitto industriale in un impianto della Creuse nel centro della Francia, dove un gruppo di operai ha minato con bombole di gas una fabbrica specializzata nell'indotto per industria automobilistica. Il sito è a rischio chiusura, in bilico quasi 300 posti di lavoro. I delegati sindacali non escludono di portare il caso a Parigi per appellarsi al nuovo presidente Macron. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ai Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha licenziato il capo dell'FBI James Comey, di cui abbiamo parlato ieri, perché non lo riteneva capace, non all'altezza del compito. L'ha sottolineato la vice portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, nell'incontro con la stampa, rimarcando che l'unico a poter licenziare il direttore dell'FBI è il presidente. Comey, vi ricordo, stava portando avanti l'indagine sui rapporti opachi intrattenuti dallo staff di Trump con quello di Putin durante la campagna per le presidenziali americane. E siamo di nuovo in Italia con la cronaca. C'è un sospettato per il rogo del camper a Centocelle. Sono morti del quartiere, siamo tutti coinvolti. Questo lo striscione in mezzo ai mazzi di fiori lasciato dai residenti del quartiere romano di Centocelle, dove nel rogo doloso del loro camper hanno perso la vita le tre sorelle di 20, 8 e 4 anni, Elisabeth, Francesca e Angelica Lilovic. In loro memoria si sta tenendo una veglia di preghiera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, promossa dalla comunità di Sant'Egidio. Intanto è caccia al killer di bambini, che nella notte ha lanciato la bottiglia incendiaria contro il camper. Il suo gesto è stato ripreso in un video al vaglio degli inquirenti, che ora intorno al ricercato starebbero stringendo il cerchio. Il movente razzista ha lasciato spazio a quello di una vendetta tra rom. Una delle ipotesi è che gli Alilovic possano aver avuto un ruolo nell'identificazione dei tre rom arrestati per la morte della giovane cinese scippata e travolta da un treno mentre inseguiva i ladri ai margini del campo rom di Salviati. L'attenzione degli agenti va anche verso un precedente incendio doloso avvenuto il 5 maggio nella vicina via Romolo Balzani. La famiglia Alilovic ha rivelato di aver ricevuto minacce tali da indurli a lasciare i campi di via Salviati e quello della Barbuta, dove abitano i parenti. Per questo il loro camper si trovava nel parcheggio del centro commerciale dove è stato appiccato l'incendio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda l'incendio all'azienda EcoX di Pomezia, di cui abbiamo parlato in questi giorni, è indagato l'amministratore delegato. Per quanto riguarda il caso di DJ Fabo, il GIP di Milano Luigi Gargiulo ha respinto al momento la richiesta di archiviazione per Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per la morte appunto di DJ Fabo. Il giudice ha fissato un'udienza per il 6 luglio per la discussione delle parti, poi prenderà una decisione. Cappato ha commentato: rispetto la decisione, ma con l'associazione Luca Coscioni andremo avanti a batterci per la vita, per i diritti dei malati e dei disabili e quindi per il rispetto della scelta di interrompere sofferenze insopportabili. Per chiudere c'è lo sport con la sesta tappa del Giro d'Italia. Sesta tappa e seconda fuga che va al traguardo. La Reggio Calabria Terme Luigiane si decide dopo 5 km. Vanno all'attacco Mats Pedersen e Jesper Stuyven della Trek Segafredo, Sylvain Dillier della BNC, Lucas Postelberger, prima maglia rosa di questa edizione, della formazione Bora Hansgrohe, e Simone Andretta della Bardiani CSF. Il gruppo li lascia andare fino a 9 minuti di vantaggio quando il pelotone decide di fare sul serio. Il distacco è ormai incolmabile. Davanti Pedersen si sacrifica in maniera splendida per Stuyven, Andretta cede proprio sull'ultimo strappo, Postelberger non ce la fa a giocarsela, così la corsa si decide in un appassionante testa a testa fra Stuyven e Dillier, con lo svizzero della BNC che riesce a sorprendere il più quotato belga e a conquistare la vittoria più bella della sua carriera. Nessuna novità per quanto riguarda la classifica generale, con Bob Jungels che conserva la sua maglia rosa per un giorno ancora. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Terme Luigiane. Bene, questo quindi è il riassunto della giornata. Direi di fermarci per aggiornare tra poco chi si sta muovendo. Intanto un occhio ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note oppure al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Per esempio, dice Andrea sulla questione dell'attivista che è stato arrestato a Mosca e si batte per i diritti dei gay in Cecenia che vengono torturati e in molti casi uccisi e che sentiremo poi qui Effetto Note. Andrea scrive: sentiti i discorsi del patriarca della Chiesa Ortodossa, sentiti i discorsi di quella terra di terroristi islamici che è la Cecenia, essere gay in quel posto è la più grande sciagura che possa capitare ad un essere umano. Mentre sulla questione vaccini, Francesco dice: ottimo, il pericolo di epidemia riguarda la società e trascende dunque la sfera individuale. Lo sbaglio è stato compiuto nel 1999 solo per malattie pressoché eradicate, è possibile la decadenza dell'obbligo vaccinale. Francesco ricorda il 1999 perché fu l'anno in cui decadde l'obbligatorietà dei vaccini. Tra pochissimo ne parleremo, cercheremo di fare chiarezza, obbligatori o no per chi va a scuola, per chi va al nido. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In 60 minuti tutte le sere, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con me Roberta Giordano, per essere costantemente aggiornati sui fatti principali dell'attualità. Cominceremo a snocciolarne qualcuno tra poco, ad approfondirlo con i vari ospiti. Il riassunto della giornata l'avete appena sentito, però sapete che ogni tanto vi ricordo anche i titoli in primo piano. Per quanto riguarda la vostra interazione, i vostri messaggi qui a Effetto Notte, c'è la pagina Facebook del programma oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Quindi, eccolo qua, dice per esempio questo ascoltatore, due ascoltatori che scrivono cose opposte. Uno che dice a proposito dei vaccini obbligatori, dice: questo vaccino obbligatorio mi ricorda vagamente l'olio di ricino, addirittura. E Beppe scrive: allora, se uno ha la peste bubonica può entrare a scuola in nome del diritto allo studio? Beh, tra poco cercheremo di chiarirlo con un esponente del governo. Intanto però vi ricordo, se non avete acceso puntualmente, quali sono i titoli principali. Scontro sui vaccini, Palazzo Chigi frena la ministra Lorenzin dicendo che aveva annunciato che i vaccini sarebbero stati obbligatori per la scuola, uno stop dopo questo annuncio su un possibile decreto domani in Consiglio dei Ministri. Comunque tra poco faremo chiarezza. Legge elettorale, non c'è l'accordo sull'Italicum bis, no del PD al testo base, ma il Movimento 5 Stelle esulta per il legalicum e anche di questo ci occuperemo, così come sentiremo l'attivista che era stato arrestato a Mosca e poi rilasciato in giornata, che era lì per i diritti dei gay in Cecenia, Yuri Guaiana. E poi in Europa l'Italia maglia nera per la crescita, periodo 2017-2018, parleremo anche del G7, Bari che diventa la capitale dell'economia e della finanza, ci collegheremo con la nostra inviata, e Trump, presidente americano contro la CIA, ha detto: ho licenziato Comey perché incapace, cioè come il capo dell'FBI che stava indagando sui rapporti opachi tra lo staff di Trump e lo staff di Putin durante le presidenziali americane. Per quanto riguarda il rogo del camper a Roma, dove sono morte tre sorelle, una di 20 anni e due bambine, il cerchio si stringe su un sospettato, c'è l'ipotesi di una vendetta maturata in ambiente Roma. Allora, come vi dicevo, partiamo dal tema dei vaccini, un tema delicato che fa discutere, che crea divisioni tra la stragrande maggioranza della comunità scientifica che ne sostiene l'assoluta necessità e le paure di alcuni genitori a causa di una tesi che gira da qualche tempo non supportata scientificamente ma che crea diffidenza, allarme appunto nei confronti dell'applicazione dei vaccini. Molte regioni italiane si stanno muovendo un po' per conto loro in ordine sparso per darsi delle regole. Per esempio in Emilia è già stata approvata una norma che richiede le vaccinazioni obbligatorie a chi si iscrive all'asilo nido. Anche la Lombardia ha preso una decisione simile, lo stesso tipo di misura a Trieste, e poi ci sono altre regioni che stanno ancora scrivendo le loro leggi come la Toscana, il Piemonte, la Puglia, il Lazio, e del resto tutte le amministrazioni locali hanno invitato Roma, insomma, a prendere una decisione nel senso dell'obbligatorietà e che sia univoca per tutti. Ed è notizia di oggi che la ministra della Salute Lorenzin ha annunciato: ho pronto un testo di legge che prevede l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola dell'obbligo, con un ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie indicate dal nostro ministero. L'ho mandato oggi, scrive, dice Lorenzin, al Presidente del Consiglio, lo porterò domani in Consiglio dei Ministri. Nel tardo pomeriggio, questo riportavano le agenzie nel virgolettato, nel tardo pomeriggio però fonti di Palazzo Chigi hanno precisato, a proposito di presunte polemiche domani all'esame del Consiglio dei Ministri, non è previsto alcun testo di legge relativo ai vaccini. Poco dopo, sempre la ministra Lorenzin ha precisato all'ANSA, dicendo: ho inviato il testo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni a scuola a Palazzo Chigi per rispondere a un'emergenza. Comincia ora un confronto e con il ministro dell'istruzione Fedeli c'è un dialogo proficuo da mesi. Dopodiché dal ministero dell'istruzione arriva questa nota che dice: l'obbligo dei vaccini non deve andare contro il diritto all'istruzione, spiegando che in tal senso si è espressa proprio la ministra Valeria Fedeli nel corso di un incontro con Lorenzin. I due diritti costituzionali, dice questa nota del Ministero dell'Istruzione, quello della salute e quello dell'istruzione, non possono, devono essere entrambi garantiti. Poi di nuovo è intervenuta la ministra Lorenzin, che ha precisato: non avevo mai detto che il provvedimento sull'obbligo di vaccinazione per la scuola fosse all'ordine del giorno, semplicemente c'è l'intenzione di aprire una discussione con i colleghi di governo. Poi è intervenuto il PD attraverso il responsabile della comunicazione di Renzi, che è Michele Anzaldi, che ha detto: stop dal Consiglio dei Ministri sui vaccini obbligatori, mi auguro che si tratti solo di un disguido comunicativo, il governo fa bene a mandare un nuovo segnale chiaro sui vaccini, è bene che su questo non risultino marce indietro e che il decreto venga fatto il prima possibile. Insomma, o un giallo o un po' di confusione, insomma, comunque sia, cerchiamo di fare chiarezza grazie all'onorevole Davide Faraone, sottosegretario alla salute. Buonasera Faraone. Buonasera a voi. Onorevole Faraone, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo? Ma io starei al merito più che alle chiacchiere. E nel merito credo che si sia tutti d'accordo su fare un provvedimento che miri a costruire un percorso sui vaccini che sia determinato e incisivo rispetto ad una fase che è anche abbastanza delicata, una fase in cui sostanzialmente viene messa in discussione da parte di chi mette in discussione l'evidenza scientifica l'utilità dei vaccini. Noi abbiamo necessità invece di far comprendere che i vaccini sono indispensabili per la salute delle nostre bambine e dei nostri bambini, e quindi l'idea di renderli obbligatori già a scuola è un'idea concreta. Dobbiamo costruire le condizioni affinché tutto questo possa essere fatto di concerto con tutti i ministeri, compresa pubblica istruzione, e quindi e le regioni anche, che hanno competenze specifiche. Sapete che già alcune regioni hanno deciso in questa direzione, per cui ci sono semplicemente dei tempi tecnici da rispettare, ma il governo è determinato nel portare avanti questa campagna. Quindi non se ne discuterà domani in Consiglio dei Ministri, dice lei parlando nel merito, però l'intenzione del governo è questa, di rendere il prima possibile obbligatori i vaccini. Assolutamente sì. Senta, e rispetto a chi dice, sai, ci sono ancora le polemiche sul diritto alla libertà, anche se un ascoltatore dice, Andrea scrive, libertà significa responsabilità, quanto al commento della ministra Fedeli, c'è per esempio Carmela che scrive: Faraone lo facevo all'istruzione, prima era sottosegretario infatti all'istruzione, ora alla salute, quindi mette insieme le due cose, perché diciamo il confronto, scontro tra virgolette, c'è stato soprattutto, diciamo, a partire da queste dichiarazioni, tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, che ha detto però l'obbligatorietà non deve ledere il diritto all'istruzione, nel senso non è che se uno non si vaccina, penso fosse questo il significato sotteso, allora non gli si può impedire di andare a scuola. Come si mettono insieme le due cose? No, ma devo dire che proprio perché ho fatto le due esperienze, i due ministeri, l'ho vista da tutti e due punti di vista, vi posso assicurare che non c'è nessuno scontro tra i due ministeri. Bisogna riuscire a costruire un percorso che tenga insieme le due esigenze. Noi abbiamo da un lato un'esigenza indispensabile, è quella di garantire a tutti i bambini che vanno a scuola di poter aver tutelata la propria salute. E al tempo stesso dobbiamo quindi costruire una campagna di sensibilizzazione che parta innanzitutto alle scuole. Noi stiamo vivendo un periodo in cui sulle malattie che sono figlie dei mancati vaccini, c'è una estensione dei numeri anche un po' preoccupante in alcuni casi, ad esempio come il morbillo, per cui dobbiamo assolutamente agire sapendo che per essere incisivi bisogna fare un'azione che sia coordinata in tutto il territorio nazionale, mentre ogni regione, come avrete visto in questi ultimi mesi, si è mossa in maniera separata l'una dall'altra. Già alcune regioni hanno cominciato a introdurre l'obbligo per le scuole dell'infanzia. C'è un dibattito che riguarda questo obbligo per quanti anni debba valere, se per la scuola dell'obbligo, soltanto per l'infanzia. Quindi io credo che una sintesi poi verrà trovata alla fine nel trovare una soluzione che tenga insieme il diritto allo studio ma al tempo stesso il diritto alla salute, che oggi è messo in discussione e leso da tante bufale che si scontrano contro l'evidenza scientifica. Quindi si troverà la sintesi tra queste diverse esigenze in quanto tempo? Difficile dirlo a questo punto. Ma i tempi non potranno essere assolutamente lunghi. Noi avevamo convocato una conferenza Stato Regioni proprio perché le regioni avevano cominciato a legiferare per fare tirar fuori una legge unica nazionale, e quindi dobbiamo da questo punto di vista agire rapidamente. Per cui non sarà domani il momento in cui verrà fuori il provvedimento, ma sicuramente molto presto. Bene, aspettiamo, la ringrazio intanto onorevole Davide Farone, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Direi adesso che quindi, mentre voi continuate a interagire sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio giorno e notte, c'è il numero anche il 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp. Dice un ascoltatore: è possibile che tra i ministri e parlamentari del governo ci siano cialtroni incompetenti, tra legittima difesa, vaccini e legge elettorale c'è un totale disastro. Insomma, sembra difficile trovare una sintesi, però l'onorevole Farone era ottimista su questo, almeno per quanto riguarda i vaccini. Poi sappiamo che la legge sulla legittima difesa, la legge elettorale stessa, della legge elettorale parleremo dopo, cerchiamo di capire a che punto si è, anche un po' di chiarezza, perché anche qui le varie proposte, il sistema tedesco corretto, l'Italicum bis, capiamo di cosa si tratta, ma tra poco. La natura di prima mano vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi Roberta Giordano. Abbiamo appena parlato con l'onorevole Davide Farone, sottosegretario alla salute, per chiarire un po' questa rincorsa di notizie smentite oggi su un provvedimento di legge per rendere obbligatori i vaccini per i bambini che vanno dal nido fino insomma alle scuole dell'obbligo. Oggi Lorenzini, la ministra della salute, aveva annunciato che domani sarebbe discusso in Consiglio dei Ministri questo provvedimento, poi Palazzo Chigi ha smentito, ci sono state varie anche qui rincorse di notizie e anche un ammonimento del Ministero dell'Istruzione che ha detto il diritto, il dovere, l'obbligo dei vaccini non può però ledere il diritto all'istruzione. E qui Farone ci ha detto che insomma si riuscirà in breve tempo a raggiungere una sintesi tra le diverse esigenze. Vedo ancora i vostri messaggi su questo argomento sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure anche al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Matilde dice: ma chi non si vaccina paga una multa? Quanto? Va in prigione? Per quanto? Matilde, non fare queste domande angoscianti, angosciose. Al momento ancora non c'è una legge nazionale. Dicevamo prima che le regioni stanno andando un po' in ordine sparso, e per questo che evidentemente c'è bisogno di un provvedimento univoco che dica come ci si deve comportare un po' in tutta Italia, un po' in tutte le regioni. Vi dicevo che già in Emilia, in Lombardia, sono state applicate delle leggi in questo senso, sono state varate, e Trieste anche, poi ci sono altre regioni che ancora si stanno muovendo, però a un certo punto bisognerà arrivare a un testo nazionale. Poi dice invece un altro ascoltatore: in Svezia ieri hanno votato contro ogni qualsiasi obbligo, in Svezia sono tutti matti. Non ho seguito, comunque la Svezia deciderà per sé. Emanuele poi dice: scusate, ma non trovo giusto obbligare i vaccini nelle scuole dell'obbligo, anche perché sono a rischio i non vaccinati, chi si è vaccinato è immune, oppure i vaccini non funzionano, ci vorrebbe un po' di chiarezza anche tu, scusami Emanuele, con tutto il rispetto, non ho ben capito, sono a rischio coloro che non si vaccinano, ma anche coloro che si vaccinano e poi sono a contatto con altri, nel senso, vi faccio un esempio brevissimo, nella meningite, no? È successo qualche volta che qualche bambino si ammalasse, contraesse comunque la meningite anche se vaccinato, però questo hanno spiegato i medici virologi che in realtà attutisce molto, anche nel caso un bambino contraesse la meningite dopo che è stato vaccinato, la vaccinazione attutisce il rischio, l'impatto, e quindi comunque ha meno rischi poi che possa avere un esito funesto. Direi adesso tra poco di passare a un altro tema, però se non avete acceso puntualmente alle 21, queste sono le notizie principali. Vaccini, la ministra Lorenzin annuncia pronto il decreto per le vaccinazioni obbligatorie a scuola, sostenuto dal PD. Palazzo Chigi precisa: non se ne discuterà domani, ma la ministra Fedeli avverte: non si leda il diritto all'istruzione. Avete sentito poco fa qui il sottosegretario Faraone che ha detto sì, riuscirà a arrivare a una sintesi. L'attivista italiano arrestato a Mosca e poi rilasciato, ne parleremo tra pochissimo. Legge elettorale, niente accordo sul sistema tedesco corretto proposto da PD, no di Forza Italia e Movimento 5 Stelle, poco fa presentato l'Italicum bis. Bari, capitale mondiale dell'economia, oggi è partito il G7 delle finanze. Rogo del camper a Roma, il cerchio si stringe su un sospettato, c'è l'ipotesi di una vendetta maturata in ambienti rom. Il caso di DJ Fabo, il GIP respinge l'archiviazione per Marco Cappato, l'esponente radicale commenta: rispetto la decisione ma vado avanti. Per il ciclismo, al Giro d'Italia, la sesta tappa è dello svizzero Didier Jungels, resta in rosa. Ora invece vi farò sentire l'intervista che ho fatto poco prima dell'inizio di Effetto Notte a Yuri Guaiana, attivista dell'associazione radicale Certi Diritti, che è stato fermato oggi dalla polizia a Mosca insieme ad altri 4 attivisti russi mentre andavano alla Procura Generale per consegnare la raccolta firme, circa 2 milioni di firme, questa petizione contro il trattamento brutale dei gay in Cecenia, di cui si è parlato anche nei giorni scorsi. Voleva consegnare queste firme, è stato arrestato, poi è stato rilasciato nel tardo pomeriggio, lo ha annunciato il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova. Alfano ha lodato l'ottimo lavoro dell'ambasciata, insomma, quando ho sentito Yuri stava, era sullo shuttle, sul pullman che lo portava in aeroporto all'aereo, quindi sono riuscita giusto a parlare con lui 4 minuti, e quindi sentiamo che cosa ha detto. Yuri Guaiana, ciao Yuri. Eccomi, ciao. Sei ancora sullo shuttle, sul pullman che ti sta portando all'aereo, quindi cerco di carpirti tutto quello che posso. Ci racconti che giornata è stata la tua oggi? Sì, assolutamente, è stata una giornata assai rocambolesca. Io pensavo di fare un gesto banale come quello che si fa tante volte in Italia, soprattutto da radicali, cioè di consegnare delle firme ufficialmente all'ufficio protocollo dell'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa, e invece mi sono ritrovato a passare un bel po' di ore nella cella di una stazione di polizia di Mosca. Ti sei spaventato? Come ti hanno trattato? La polizia ci ha trattato in maniera abbastanza rispettosa, certo è stato un po' così. Inquietante, ma l'importante, direi, non, visto che è finito tutto bene, non è stato quello, è il messaggio. Il messaggio è quello che ci vuole un'inchiesta assolutamente efficace perché ci possa essere giustizia per tutti quegli omosessuali che in Cecenia ancora oggi vengono imprigionati legalmente, torturati e a volte, in 4 casi almeno, anche uccisi. Questo è il punto della questione. Le firme chiedevano proprio questo, più di 2 milioni di persone hanno firmato firme, hanno firmato petizioni sulla piattaforma con cui lavoro, All Out, la piattaforma Avaaz e la piattaforma Change.org, ci siamo riuniti tutti insieme per mandare un messaggio alle autorità russe per fare rispettare la loro stessa legge, i loro stessi impegni internazionali, perché la Russia ha firmato molti trattati internazionali ed è parte del Consiglio d'Europa, quindi è tenuta a far rispettare i diritti umani, e invece è teatro di uno dei più grandi, delle più grandi atrocità della storia recente, che può essere addirittura, può anche configurarsi come crimine contro l'umanità, perché ci sono delle azioni studiate contro un gruppo umano identificato per una caratteristica ascritta della personalità di queste persone. Yuri, loro ti hanno spiegato perché ti hanno arrestato, banalmente? Me l'hanno spiegato alla fine, nella lunga procedura di rilascio, mi hanno contestato di avere partecipato ad una manifestazione non autorizzata, mentre noi volevamo semplicemente consegnare delle firme, e mi hanno contestato la resistenza pubblica ufficiale, che anche quella assolutamente non c'è stata, perché come ci hanno fermato in forza, diciamo, ci hanno preso le nostre scatole con le firme, ci hanno portato alla camionetta, perquisito e mandato dentro la camionetta. Yuri, sappiamo che non sono, diciamo così, particolarmente gentili e delicati neanche in Russia con i gay, anche il gay pride spesso, no? È motivo poi di rappresaglie, di forze dell'ordine che arrivano, quei lacrimogeni, eccetera. La gente comune può chiedersi come mai per i gay in Cecenia sei andato lì in Russia a consegnare. In Cecenia si è arrivati ad un livello veramente inaccettabile, ripeto, si può veramente configurare, ai sensi dell'articolo 7 del Trattato per la Corte Penale Internazionale, anche come un crimine contro l'umanità, quindi non è semplicemente violenza in società omofoba, anche violenza sporadica della polizia, divieto dei pride, di divieto di manifestare in pubblico. Qui si è passo oltre, è un livello di scientifico, di studiata persecuzione delle persone omosessuali, in particolare dei maschi gay, che non ha precedente nella storia recentissima, e quindi necessita di delle azioni che poi in realtà, ripeto, dovrebbero essere banali, perché si è semplicemente cercato di portare delle firme e ci è stato impedito. Dovremmo consegnarle per via elettronica, perché noi insistiamo. Chiaro, Yuri, ti sto un po' perdendo, perché per fortuna ti starei avvicinando all'aereo a questo punto. Allora, insomma, buon rientro e vai avanti così, insomma, con la tua forza e il tuo coraggio. Grazie mille a tutti voi. Grazie. Ciao Yuri, grazie. A presto. Ciao. Grazie. E questo, insomma, è quello che ha raccontato Yuri mentre stava andando all'aereo, che poi lo sta riportando in queste ore in Italia dalla Russia. Ringrazio Francesco per il suo bel messaggio. Continuate al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Un altro ascoltatore o ascoltatrice, mettete un nome anche d'arte se volete mettere il vostro nome, dice: il vaiolo era obbligatorio, quante storie, cioè l'antivaiolosa, no? Come si chiamava. Comunque vedo anche dei messaggi contrastanti di chi ancora non si fida. Poi c'è questo ascoltatore che dice: allora facciamo anche i test sanguigni se questi figlioli prima di andare all'asilo nido abbiano realmente la copertura adeguata, o è un'eresia la mia. Insomma, vedremo poi che cosa sortirà dal cilindro del Ministero della Salute. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Direi di aggiornare chi sta viaggiando e ci ritroviamo con un altro tema tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante le notizie di cui vi ho parlato finora, Roberta Giordano sempre con voi. Adesso direi anche di dedicare uno spazio, tanto per mancare, a questo travagliato percorso della legge elettorale. Ma intanto vi ricordo anche che tra le notizie in primo piano di cui abbiamo parlato, per esempio col sottosegretario alla salute Davide Faraone, questo scontro sui vaccini, come chiamarlo, perché oggi c'è stato l'annuncio della ministra Lorenzin, che ha detto domani in Consiglio dei Ministri si discuterà il provvedimento di legge sull'obbligo dei vaccini a scuola, poi dopo è stata smentita da una nota di Palazzo Chigi, e poi c'è stato anche il Ministero dell'Istruzione che ha detto però l'obbligo dei vaccini a scuola non deve ledere il diritto all'istruzione. Faraone ha cercato di fare un po' di chiarezza, ha detto che presto sarà raggiunta una sintesi di queste diverse esigenze. La legge elettorale, non c'è accordo sull'Italicum bis, ma ne parleremo a momenti, e poi avete appena sentito la chiacchierata che ho fatto con l'attivista Yuri Guaiana, che era stato arrestato a Mosca per aver voluto portare lì tutte le firme di questa grande petizione, 2 milioni di firme per i diritti dei gay in Cecenia, che vengono, ci diceva, torturati e in molti casi uccisi. Allora direi adesso di passare al prossimo tema. Che è la benedetta legge elettorale, c'è il solito caos, c'è un testo base ma senza accordo. Ieri Forza Italia e Movimento 5 Stelle avevano aperto all'estensione dell'Italicum, che adesso sarebbe il Legalicum, perché è uscito quella parte che è uscita dalla bocciatura della consulta del Porcellum, erano favorevoli all'estensione anche al Senato. Poi oggi il PD propone un sistema tedesco corretto, un po' maggioritario, un po' proporzionale, però poi il Movimento 5 Stelle e Forza Italia dicono di no, che a loro sembra un verdinellum, e poi in serata è stato depositato il testo base dell'Italicum bis. Insomma, speriamo, io do questo arduo compito alla nostra Elisabetta Fiorito in diretta da Roma, ciao Elisabetta, di aiutarci a chiarire, a fare molta chiarezza, a parlare in modo chiaro di che cosa c'è in campo, e tu sai che è un argomento che spesso fa sbadigliare ascoltatore e ascoltatrice, vediamo se riesci invece tu proprio ad animare, a attirare l'attenzione. A te, Betta. Ma diciamo che non c'è accordo e quindi non si sa che cosa succederà a questo proposito, perché le forze politiche sono molto distanti tra loro. Il PD proponeva una sorta di legge elettorale mista, metà proporzionale e metà maggioritario, con un premio, con uno sbarramento al 5%, mentre il Movimento 5 Stelle voleva l'estensione dell'Italicum al Senato, e Forza Italia non gli dispiaceva questa soluzione, che è quella poi passata come testo base in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Quindi si estenderà il Legalicum, cioè praticamente l'Italicum che è uscito fuori dalla Corte Costituzionale, anche al Senato. Premio di maggioranza alla lista che abbia il 40%, soglia di sbarramento per entrambe le Camere al 3%, ma il PD non ci sta, eccetto Redazzati ha detto non è detto che la votiamo, quindi si ritornerà da capo. Questo testo base che è appena stato approvato possibilmente potrebbe diventare carta straccia. Ecco, non si è accorto tra questo, se vogliamo dirlo. Il problema è che tutti vogliono una legge diversa dagli altri. Ognuno, diciamo, ritagliata su sé, su di sé, no? Che faccia un po' comodo, sì, le proprie esigenze. Diciamo che questa svolta al proporzionale non piace, che è una svolta di Forza Italia ed è invece una conferma di quello che ha sempre detto il Movimento 5 Stelle. Non piace a Matteo Renzi, che preferirebbe il maggioritario. Al Senato invece dei 100 collegi, alla Camera ci saranno 50 collegi, e quindi bisogna capire che cosa succede. Capilista bloccate, preferenze, e viene abolito poi il criterio delle pluricandidature per vari collegi, cioè la possibilità che una persona si possa candidare in vari collegi. Mm. E, insomma, c'è un po' un pasticcio, perché poi non è detto che ci potrebbe essere anche il fatto che ci siano due maggioranze diverse tra Camera e Senato, perché se si estende al Senato la soglia del 40%, cioè non viene specificato se è la lista o se è il cioè perché chi la ottiene, questo 40%, insomma. Beh, tutto è ancora un magma confuso a livello del Big Bang, ecco, e se diciamo, lo dici tu ci crediamo, insomma, nell'attimo dopo il Big Bang adesso c'è un testo base e già su questo testo base, che è molto confuso perché potrebbe produrre due maggioranze diverse tra Camera e Senato, non c'è accordo tra le forze politiche. Diciamo che stiamo parlando del nulla? Beh, forse sì. Comunque, insomma, si va verso un'estensione dell'Italicum anche al Senato. Diciamo, questa è la base. Poi vediamo molto semplicemente. Il resto staremo a vedere. Tanto mi sa che si andrà avanti parecchio. Grazie, Betta Fiorito, da Roma. Ciao, Betta. Adesso invece ci colleghiamo con Bari, dove c'è la nostra inviata Teresa Trillò. Cara Teresa, buonasera. Ciao, buonasera. Mentre mangi orecchiette e cime di rape... Non ancora. Ha aspettato giusto effetto note, quindi sta morendo di fame. Perché ci deve raccontare cose importanti. Oggi c'è stato il via al G7 di Bari, con i ministri delle finanze, diciamo la vigilia, perché domani si entrerà nel merito, no? Sì, esattamente la vigilia, perché il G7 è vero e proprio partirà domani. Oggi ci sono stati degli incontri bilaterali tra, ad esempio, il ministro dell'economia Padoan e il ministro dell'economia americano e anche con Moscovici, il commissario europeo. E c'è stato soprattutto il lavoro anche degli Sherpa e dei tecnici. Teresa, se ti sento male col telefono, forse la fame te lo stai mangiando un po', ecco. No, è che ora ti sento è meglio. È una linea non ottima. Sono sul lungomare, bello. Non c'è molto, lungomare anche di Bari. Sono fuori. Sì. E quindi dicevo, oggi c'è stato un lavoro soprattutto tecnico, anche dei tecnici e degli Sherpa, che stanno mettendo a punto i documenti che saranno poi discussi domani dai ministri dei sette paesi importanti e più ricchi del pianeta, che lo ricordiamo sono il Canada, il Giappone, la Germania, gli Stati Uniti, l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna. Senti Teresa, ma gli argomenti proprio quelli cruciali, insomma, che saranno sul tavolo? Ecco sì, domani si parlerà di uguaglianza, cioè sono quattro i pilastri del G7 finanziario: uguaglianza e crescita inclusiva, cyber security, e ci sarà un focus sulla lotta al terrorismo, lotta al finanziamento del terrorismo e la sicurezza del sistema finanziario e la tassazione internazionale. Anche ci sarà un focus sulla web tax. E questo della web tax è un argomento un po' complesso e spinoso, perché si tratta sostanzialmente di decidere una linea comune su come tassare le grandi società del web, ossia Amazon, Google, Facebook, e quindi gli interessi in campo chiaramente sono tanti. Certo. E sono soprattutto poi anche grandi società statunitensi, quindi non c'è un'unanimità su questa web tax. Cerca qui a Bari di fare quantomeno una dichiarazione politica che possa poi servire di base all'OCSE, che sta preparando un rapporto che sarà pubblicato il prossimo anno, a marzo 2018, e quindi l'intenzione è arrivare con una linea univoca per dire all'OCSE: fate qualcosa di concreto sulla tassazione delle grandi società del web. Questa è un po' la linea che si sta cercando di trovare. Questione in effetti annosa questa, no? Se ne parla anche da un po' in Italia, effettivamente, insomma, verrebbero fuori, diciamo, un po' di risorse da questa tassazione. Allora, quindi ci ricolleghiamo domani con te, Teresa Trillò. Sì, certo, a domani. Ci racconterai un po' come va la giornata. Adesso direi che invece, ciao Teresa, salutaci Bari, la bellissima Bari, soprattutto il centro storico. Direi che stiamo quasi per lasciarci, vedo diversi altri vostri messaggi, molti interessati anche ai vaccini. Un altro dice: ma il vaccino contro l'AIDS non c'è ancora dopo 30 anni di ricerche. Beh, diciamo che sicuramente le cure sono progredite, avanzate, ancora proprio un vaccino che immunizzi in questo momento purtroppo ancora non c'è. Ci risentiamo tra pochissimo alle 22:00.